Quando tu ritornerai da me, avrò soltanto il tempo di ridarti indietro il resto, e poi del resto io non chiedo altro che aspettarmi da te l'ultimo bacio. E se tu vorrai riaverlo, come per finire questa nostra storia che sembrava non avesse fine, ed invece già qui l'ultimo bacio sulle tue labbra. E adesso, solo adesso, sulla fine, proprio adesso, come adesso, puoi capire tutto quello che cercavi. Ora è questo che ti fa fuggire. Non ero forse io quello che non sapeva amare. Non ero forse io sempre a sbagliare. Male sa di eterno.